È il colmo del pessimismo. Però, diciamo, pessimismo non riuscire mai a arrivare davanti a Lorenzo. Poi non dir coach perché sembra un pi per il culo, però lo so che devo abituarmi, ma quando mi chiamano coach i ragazzi non mi giro. Quanto a Ecclestone, bisogna avere rispetto per le persone molto anziane, soprattutto quando per l'età non riescono più a controllare le parole. Tutti convocati di Carlo Genta. Ciao e benvenuto a una nuova puntata della Lavagna. Da oggi iniziamo a parlare dei giochi a due e il primo che trattiamo è il dai e vai. Sono convinto che tutti sanno cosa vuol dire dai e vai e tutti sanno giocarlo in campo. Sapete cos'è un dai e vai? Sapete cos'è un dai e vai? Franco Piantalini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Grazie signor Genta, buona trasmissione, buona giornata. Allora, dai e vai è il titolo di inizio di una nuova stagione, direi quasi una nuova epoca anche per il weekend dello sport di Radio 24. Dopo tutti i convocati, che a grande richiesta non è vero, però lo dico io, diventa anche un magazine del sabato dalle 17 alle 18, ma soprattutto la domenica. Luca Gattuso, ora qui con me, e Sergio Ferentino per il dai e vai, che adesso proviamo a capire che programma sarà. Ciao Luca. Ciao Carlo e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ah, mi fa piacere che tu ci spieghi cos'è il dai e vai, perché noi non l'abbiamo ancora capito. Quindi... No, mi pugnali al cuore. Per me, malato di pallacanestro, di cui poi parleremo. È che suonava bene dai e vai, capito? Tra l'altro bene. Con la E commerciale, perché siamo a Radio 24, quindi ci vuole la E commerciale fra il dai e il vai. Non è una E semplice, eh? Ciao Sergio Ferentino. Non ci sei ancora? Non c'è ancora. Adesso arriva Sergio. Arriva Sergio. Anche perché arriva. A te, tifoso sandoriano, hai fatto festa tutta la settimana. Sì, mi fa piacere essere qua con un tifoso milanista come Carlo Genta, un vecchio cuore rossonero che è qui fra di noi. Carlo Genta con la maglia, in questo momento ha la maglia di Boateng. Ho la maglia di Boateng. C'è Sergio Ferentino. Ciao Sergio. Una buona giornata a voi. Allora, spiegami tu, visto che Luca non è in grado, che cos'è il dai e vai? Se no devo spiegarvelo io. Lo sospettavo questa cosa, che Luca non fosse in grado di spiegare questa cosa, anche perché non gli ho detto che cosa andiamo a fare, quindi è per questo che non è in grado di spiegare. Sergio, sai una dai cosa? Dai, intanto passato veloce sul calcio, con approfondimenti su tutti gli altri sport, non gli approfondimenti normali, no? Cioè, per esempio, se volessimo fare un approfondimento in questo periodo qua, no? Cioè, che cosa possiamo fare? L'approfondimento reale è chi è il parrucchiere, appunto, di Balotelli, per esempio. No, adesso sì. Sto scherzando, non vorrei, già immagino dal direttore di Radio 24 che sia, oddio, no, questa cosa non si dice. Ma no, in realtà ne dico ben di peggio, quindi vai sereno. Tutti i suoi lati anche più oscuri, ma soprattutto gli sport minori anche, sì, che ogni domenica affastellano nelle nostre giornate. Sì. Si parte dal tamburello anche, perché no? No, ma adesso c'è una cosa, c'è un torneo di tamburello, ebbene sì. No, parleremo di tutte queste cose, ma parleremo dello sport praticato dagli italiani. E guardate che gli italiani fanno tantissimi sport inutili, tra l'altro, non è neanche quelli che poi portano medaglie alle Olimpiadi, proprio sport inutili, ma soltanto per farli. Sergio, sai una cosa? Ho scoperto che Carlo Genta è juventino come te, è qua con la maglia di Marchisio in studio, perché pensava fossi qua in studio con noi e si è messo la maglia di Marchisio. Anche questa non è vera. Bianconero. No. Dai. Bianconero. Anche questa dai. È un'orrida menzogna. Il dai e vai, però, nella pallacanestro, dai e vai nella pallacanestro, passaggio, taglio veloce verso canestro, ripassaggio a chi va verso canestro, schiacciata. È il gioco più semplice e più bello che c'è. Il vostro programma lo hai spiegato a grandi linee. Da domenica, dalle 16.30 alle 19, spazio al calcio, a tutti gli sport, ma senza o mi sbaglio, Luca? Senza limiti, mancare... senza limiti. Limiti e sorrisi. Sì, no? Sì, senza limiti. Ma perché ci sento Luca Gattuso? No, con Luca Gattuso, che senso? Ah, ecco, no, senza limiti e senza freni, e diciamo faremo tutto, non solo calcio. E il sottotitolo della trasmissione è già una linea programmatica per quanto riguarda Dai e Vai. No. Ricordiamo anche dalle 22 alle 23, non solo dalle 16:30. E poi dalle 22 alle 23 per tirare la rete. E questo aspetto che secondo me, per esempio, a me piace sottolineare, i giornalisti fanno ormai parte integrante del mondo del calcio e nessuno fa le recensioni ai giornalisti, per esempio. Mm. No? Cioè, sarebbe interessante sapere cosa ne pensano i calciatori di alcuni articoli, senza entrare nei luoghi comuni, no? Cioè, quindi devo dire calciatori che sono in grado di dare delle risposte, no? Sì, cioè, di intendere, non... di volere, capaci di intendere, sì, di volere. Insomma, ecco, questo, ok? E lì è il punto, è difficile trovare, stato. Però, ecco, quello per esempio sarebbe interessante riuscire a capire, no? Sì. Oppure come le inquadrature che vengono date nelle televisioni, no? O le notizie che vengono esasperate all'interno delle televisioni, ma anche soltanto l'evoluzione dal punto di vista dell'immagine, sia di comunicazione ma anche soltanto visiva. Cioè, quello è cambiato tantissimo il modo di riprendere, per esempio tu hai citato il basket. Mm. Pensa soltanto come veniva ripreso il basket anche soltanto 20 anni fa. Sì. E come viene ripreso adesso? Beh, no? La RAI più o meno allo stesso modo. La moltiplicazione dei pani, dei pesci e delle televisioni ha portato anche a più telecamere, ecco. Senti, giusto per fare un esempio a te, vecchio gobbo, parlavi di reazioni dei giornali. Guarda, vecchio gobbo viene qua, ti mena, perché vecchio gobbo non gliel'ha detto, non gliel'ha detto nessuno gobbo negli ultimi 10 anni. Ci penso io. No, c'è questa storia di Marchisio che insomma intervistato da Style, il principino. Ci sarà qualche giocatore che al solo trovarlo davanti suscita una sana vena di antipatia, gli domandano, e lui: non qualche faccia in particolare, ma una squadra, soprattutto dopo le finali ruvide di Coppa Italia e Supercoppa, il Napoli. Quando me lo trovo di fronte scatta qualcosa sotto il Vesuvio, l'inferno vero, con il Mattino che scrive: è così che si fomenta la violenza negli stadi, fai un po' tu. Ecco, allora, una riflessione su quello che ha detto il fratello bianconero Marchisio. Cioè, sì. Pensate che cosa esce fuori e che cosa succede quando scatta Fiorentina Juventus. Mm. Lì non è antipatia, lì scatenano l'odio, ma a prescindere dallo Juventus, mi sembra normale che ci siano alcune squadre che sono più simpatiche e altre meno antipatiche. Cioè, io non vorrei che questa basta ipocrisia di bassa lega anche. Ma assolutamente. Cioè, adesso non facciamo finta che non esistano delle frasi, delle squadre che ci sono più simpatiche o meno simpatiche. In particolare, Marchisio ce l'ha preso con Napoli, devo dire che non lo so neanche io perché a me, per esempio, Napoli è molto simpatico. Ma voglio dire, per 20 anni... Ma sì, ma sana rivalità, no, sportiva, viva Dio, qualcuno che dice qualcosa. Esatto, qualcuno che ha il coraggio delle affermazioni, sono tutti lì in punta di fioretto, ma dai. Poi ricordiamolo, Sergio, perché noi siamo contrari alla violenza negli stadi, favorevoli alla violenza negli studi, quindi Carlo stai attento. Quindi... Sì, sì, sono favorevole anch'io. No, ma no, io sono obiettore di coscienza, no, voglio dire. Finché non hai una cuffia e un microfono, il problema è che lì poi dopo cambi. Esatto. No, invece vabbè, comunque, dimmi. Ma qui sei sandoriano? Chi? Sì, Carlo, io, sì. Io Carlo, sandoriano. Sì, sandoriano. E tra l'altro mi ha appena detto. E anche genuano. No, in realtà ha detto: non ha un giocatore in particolare che mi sta sulle balle, ma il Genoa proprio come società, come squadra. Ecco. L'ha appena detto, ecco. Fuori onda. L'ho appena dichiarato. Naturalmente, anche questa è una balla. No, invece a sandoriano Luca Gattuso. Far commentare una brutta notizia, perché la Sampdoria, cioè, solo brutte notizie puoi no darmi. No, così lo fai arrabbiare, poi ti mena. Ah, ok, perfetto. Poi ti mena domenica dalle 16:30 fino alle 19, poi anche la sera. Sì, mi ripassa. No, la stavo sera. Leggendo la pubblicazione dei verbali degli interrogatori di Conte, che quando si partivano la torta a Bari con tanto di buste e cifre, sì. E lui dice: ma è impossibile che non ti sei accorto di questo, gli domandano. Questo i magistrati glielo, sì, chiedono. E io dico: è impossibile, ma ho avuto Carobbio, ho avuto Masiello, ho avuto Doni. Pensa a te che roba. E voi a me state dicendo: ma io sono un coglione, dice il buon Antonio Conte. Ora io sottoscrivo le frasi di Conte, adesso, cioè, adesso... No, aspetta un attimo, Sergio. Prima, sono più buoni gli avvocati di Conte o quelli di Radio 24? Perché poi ci posso ripensare se sottoscrive le... Allora, se vogliamo fare un commento, vuoi fare un commento su questa storia? Ma non lo so. No, io no, perché te lo lascio a casa tua. Quindi. Io sì, Sergio. No, allora, la cosa, voglio dire, il commento, l'unico commento che devo fare, sì, è il coglione, detto francamente. Ah, quindi sottoscrivi? Assolutamente, cioè, ma perché voi vi dimenticate, cioè, Conte non si ricordava neanche della farmacia, non so, quando è stato interrogato in tribunale, lui non aveva mai visto nulla, non aveva mai visto le medicine, ma lei stava benissimo, quindi certo. Ha fatto delle dichiarazioni... non vedeva nulla, non sapeva nulla, cioè in questo caso qua. E anche qui c'è la stessa situazione. Ora, da qui, dei citroni, però di grande capacità calcistica, ce ne sono di zeppe. Cioè, pensate al mondo del calcio, pensate alle persone molto intelligenti e anche dei campioni a livello mondiale, pochissimi. Cioè, sì. Contro due, sì. Tre, contemporanea. Sì. Ecco, la stessa cosa, Conte è diventato, abbiamo scoperto, un genio del mondo del calcio dal punto di vista dell'allenatore e di quello che deve fare l'allenatore, ma devastante su tutto il resto, ecco, quindi vabbè, che possiamo farci? Ci portiamo a quello lì. Ce lo teniamo così. Che possiamo farci? Vi ascoltiamo ogni domenica dalle 16.30 alle 19, poi dalle 22 alle 23 con Luca Gattuso e Sergio Ferrentino per Dai e Vai, la nuova domenica dello sport di Radio 24. Grazie Sergio. Grazie. Grazie a voi, provateci. E grazie all'interista Carlo Genta, possiamo dirlo, è interista. Gattuso. Sparisci. Ciao Carlo, buona trasmissione. Ciao Luca, in bocca al lupo per questa nuova stagione. Traffico, poi vi aspetto, 800 24 00 24, numero verde. Salve, piacere, è la prima volta che sento lei e mi fa molto piacere intervenire. Benissimo. Chi vuole che aspettiamo il traffico oppure come vuole? No, il traffico. No. E chi ti vuole a te, antipatico? 800 24 00 24, il vostro numero verde. Siete convocati tutti i giorni dal lunedì al venerdì e siete convocati all'ascolto da domani anche dalle 17 alle 18 per un magazine che conterrà di tutto, conterrà tutto il meglio della settimana, conterrà anche le vostre voci, perché i migliori, sapete che al lunedì facciamo il podio delle dichiarazioni più esilaranti della domenica, più divertenti della domenica, dei protagonisti del mondo del pallone. Ebbene, lo faremo, faremo anche il podio delle migliori dichiarazioni dei nostri ascoltatori durante la settimana. Pensate un po'. 800 24 00 24. Luigi, provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io chiamavo semplicemente per dire che sono stanco di questo ridicolo vittimismo dei napoletani. E De Laurentiis scappa via perché non vanno bene i calendari, e Mazzarri si lamenta sempre degli arbitraggi, i tifosi si lamentano delle dichiarazioni degli altri giocatori, ma basta. Che ne pensa? Che tutti i torti non ce li ha. Piangono sempre. Mi sembra che la dichiarazione di Marchisio stia tra le righe. Mi sembra che quello che le reazioni anche della Napoli, dell'opinione pubblica, sia molto sopra quelle righe. Oggi c'è l'assemblea di Lega in cui vedrete che non eleggeranno a Bodi presidente, perché c'è un manovra di corridoio, lo tito molto potente, lobby eccetera eccetera eccetera, però ci proveranno. Sta parlando Galliani, ma chissà che dice. Il fatto che Ambrosini comunque non può giocare sempre, puntato un centrocampista? Ma no, forse, chissà, ma non o troviamo il giocatore giusto o non prendiamo nessuno. Non vogliamo portare altri giocatori, siamo in tanti, quindi è difficile. Magari se venisse fuori un qualche cosa, possibile, insomma, però non... Poli piace? Direi improbabile, ma non vogliamo fare investimenti importanti in questo momento. Vediamo, dai, vediamo cosa succede. Secondo lei, chi sarà? Sono sbagliato sulla macchina. Quale sarà il colpo di questo mercato? Ma io non credo che ci saranno grandi colpi. Io credo Non credo a un grande colpo. Drogba? Io non credo assolutamente che verrà in Italia in questo mese di gennaio. Allegri prossimo anno ancora sul continente. Questo è Galliani in diretta, quindi all'ingresso della Lega Calcio, che parla di mercato, del Milan e degli altri. Non faremo grandi colpi noi, ma non li faranno neanche gli altri, vedrete. Quindi siamo tutti sulla stessa barca che sta affondando. Francesco, provincia di Viterbo. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Vorrei parlare di un caso, secondo me, abbastanza grave che sta succedendo nello sport. Premesso che di ciclismo si parla solamente per il doping, ormai, pur essendo secondo me uno degli sport, l'ho sempre fatto, più belli in assoluto, sia come praticante che come spettatore. Però sta venendo fuori un discorso di Armstrong, Sì. In cui si pensa, e forse lo si sapeva anche prima, l'UCI, che sarebbe l'organismo più grande del ciclismo, e fosse uno consapevole, secondo quasi avallasse il discorso di Armstrong, il vincitore di 7 Tour, perché faceva comodo. Lucy, che Francesco ha difeso fino all'ultimo Lance Armstrong, rigettando più volte al mittente le accuse scritte e comprovate dell'USADA, cioè l'agenzia antidoping americana. Fino a quando si è arresa all'evidenza, Lucy? Sì, io adesso vorrei sapere quei 7 Tour, quei corridori che sono stati vittime di Armstrong, perché negli anni 70-80 c'era lo sceriffo in Italia che era Museva. E lui non era sceriffo, era proprio un giustiziere, perché lui ha fatto fuori, sportivamente parlando, tantissimi corridori. E ricordo Simeoni, italiano, essendo laziale lo conosco abbastanza bene. Conosco anche altre persone che non sono andate più in bicicletta per lui, insomma. Quindi queste persone e tutti i praticanti di ciclismo mondiali dovrebbero fare qualcosa per queste cose. Perché Luci, se fosse comprovata la sua colpa, è una macchia che a livello mondiale nessuna federazione ha per adesso, almeno. Sì, guardi, aspettiamo l'intervista di Armstrong il 17, saranno le 3 del mattino del 18 in Italia, e ne parlavamo proprio ieri. Vedremo se Armstrong farà nomi e cognomi di parrucconi, di gente che conta, di teste coronate, e farà delle accuse specifiche e precise. Fino adesso sta pagando lui. Vediamo se vuole portare a fondo insieme al suo personaggio, insieme al suo mito, anche qualcun altro. Quindi direi di aspettare e poi ne parliamo a giochi fatti. Oggi è il giorno del basket, tra le altre cose. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao coach. Ciao Carlo, Alice Sportivo, buongiorno a tutti. Come stai? Anzi, auguri, augurissimi, perché l'altro ieri, se non ricordo male, era il tuo compleanno. 9 gennaio, assolutamente. 9 gennaio, dunque, per coach Dan Peterson, infiniti auguri. Dopo il sacco di Istanbul... tra l'altro il Fenerbahce ha perso ieri anche a Tel Aviv, il Fenerbahce di Pianigiani. Siena gioca una partita questa sera fondamentale contro il Khimki, sono appaiate, due vittorie, 0 sconfitte per una, quindi sarà una partita da non perdere, coach. Ma io, infatti, stiamo andando a Siena adesso, spero che non cade la linea prima di un tunnel o qualcosa, ma ovviamente Siena ha fatto un colpo grosso, dice, proprio rimontando da meno 11 a vincere la partita per 6 punti, Bobby Brown 41, ma la differenza è che abbiamo visto ieri sera la partita Fenerbahce lì a Tel Aviv contro Maccabi, è una squadra che non sta bene fisicamente, tanti acciacchi, una squadra alta, pesante e lenta e non più giovane, quindi la fase di recupero per questi giocatori come McCaleb, come Anderson, è un tratto lungo per loro, quindi la squadra è in grave difficoltà. Invece Siena è una squadra fresca, proprio giovane, hanno gambe, polmoni, energia, entusiasmo e tiro da tre. Quindi durissimo questa sera con Khimki, che è una buona squadra, più alta, più pesante anche loro, però anche con abbastanza mobilità. Per battere Siena bisogna essere mobile, se non lo sei ti fanno a fette. Certo, senti, io tutte le volte che incontro qualcuno, qualche appassionato di basket, continua a chiedermi: ma cosa succede a Milano? A te capiterà mille volte più che a me, naturalmente, io non so più cosa rispondere, ti dico la verità. Guarda, innanzitutto Io penso che adesso ovviamente sono in difficoltà, sono fuori dall'Eurolega e in questi giorni qui giocano per la Coppa Italia, cioè a Brindisi sono 7 vinti, 7 perse, cioè sappiamo tutta la storia. Io penso che il nome del futuro si chiama Marcus Green. Aia, sono arrivati i tunnel per, nel viaggio di coach Dan Peterson verso, verso Siena. Dunque, io vi dico, sempre rimanendo in argomento basket, poi sentiremo anche, anche Flavio Tranquillo, avevi i risultati della notte NBA, così poi vi ricordo come potete votare per, i nostri, per i nostri giocatori, cioè per Bargnani, Bellinelli e Gallinari per lo Star Game. C'è anche Gabriele da Torino che dice: ma che fine ha fatto Bargnani? Bargnani si è infortunato e guardate un po', da lì i Raptors hanno cominciato a spiccare il volo. Marco da Firenze, poi vi dico tutto. Buonasera. Buonasera. Sempre in argomento basket e Siena in particolare, volevo un suo giudizio su, diciamo, una trasformazione in positivo di un giocatore come Moss, che secondo me, a parte l'extraterrestre Bobby Brown quando fa quelle partite, è un giocatore che sta diventando fondamentale per Siena. E poi un'altra domanda, forse a Siena mancherebbe un centro un po' di peso, ci vedrebbe bene uno Sean James del Maccabi, che ne pensa? Ma guardi, giro la domanda a Costan Peterson che è uscito dalla galleria. Non sono uscito, c'è un buio totale. Buio totale. Però ci provo, ok? Per finire la risposta per Milano, io dico che con Marcus Green possono rinascere, però ovviamente fino a questo punto qua sono in grande difficoltà. Per quanto riguarda Siena, sì, certamente un pivot come avevano Kazun, tanto per dire, però il giocatore di stato non è mai Cose, sempre una galleria, buio pesto, ti saluto, buon viaggio verso, verso Siena. C'è Fabio che vuole chiedere, vorrebbe chiedere al coach cosa ne pensa dell'Enel Brindisi. Il coach è in galleria, vi dico io che secondo me Reggio Emilia, Brindisi, Roma e Caserta sono le grandi sorprese, oltre a Varese naturalmente. Sassari quasi non lo è più di questa prima parte di stagione. A proposito di NBA, dunque nella notte non tante partite, c'è stato però ma di significato, perché c'è stato il successo di Portland su Miami. Ha vinto Portland 92-90, la vittoria di Indiana in casa contro i New York Knicks, che sono, se non in caduta libera, in certa flessione, 81-76, e quindi successo esterno ai supplementari di Dallas a Sacramento, 112-117. Ma potete votare per il Gallo, il Bailey e il Mago Bargnani allo Star Game. No, potete votare, ve lo diciamo noi, ma manca lo spot che avevamo mandato. Potete votare fino al, ricordatemelo, fino a quando? Fino a lunedì, quindi avete tempo per votare per i nostri rappresentanti allo Star Game. Ci fermiamo per la borsa, subito dopo torniamo, 800 24 00 24. Abbiamo molte altre cose di cui discutere, oltre all'intervento di Flavio Tranquillo. C'è un Raiola che parla di un Berlusconi che di frutta non se ne intende. Molto divertente. A dopo. Il gol di Montolivo l'era buono. Il rigore su Rovigno le c'era. L'espulsione di Jesus, come si chiama, la c'era. Tutti convocati. No, Berlusconi di frutta se ne intende poco, pochissimo. Mario è una ciliegina, non è una mela marcia, anzi, tutto il contrario, una frutta esotica, una ciliegina, quindi il presidente lì ha sbagliato. Questa è la Raiola, il presidente non fa il fruttivendolo, il presidente Berlusconi ha sbagliato, non si intende di frutta, frutto esotico, una ciliegina, e poi Raiola dice che non arriverà al Milan salvo uno 0,000001%. Questo lo scopriremo vivendo. Intanto io torno ai miei amici ascoltatori. 800 24 00 24, invece, questo è il vostro numero verde, perché siete sempre tutti convocati. Ricordo con piacere, come mi chiede di fare Fabrizio, che oggi in Spagna iniziano i mondiali di quel bellissimo sport che è la pallamano. Grazie Fabrizio per la segnalazione. Massimo, provincia di Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, la chiamavo in merito alla prima telefonata che avete ricevuto, l'ascoltatore che si lamentava del vittimismo riguardo le dichiarazioni di Marchisio. Sì. Ecco, io penso che le dichiarazioni di Marchisio rientrino nelle righe. Volevo comunque chiederle se anche quelle di Mandorlini, che erano dello stesso tenore nei confronti degli Ivorlini, rientrassero nella stessa, diciamo così, categoria, insomma, ecco. No, secondo me sono categorie un po' diverse. Sono categorie un po' diverse perché Mandorlini per l'ennesima volta è andato sopra le righe. Semplicemente Marchisio parla di un avversario sportivo che con il quale agonisticamente riesce a dare il meglio, una squadra che gli è sportivamente antipatica. In questo non c'è nulla di male, mi sembra semplicemente rivalità sportiva. Quanto ricorderei invece su Mandorlini, lasciando stare certi cori, lasciando stare altre dichiarazioni, non rientrano nelle righe del buon senso, secondo me. Salvatore, provincia di Varese, buongiorno. Ciao Carlo, ciao. Ti ringrazio molto della convocazione. Sempre tutti convocati. E ti ammiro molto. Grazie. Io però devo farti una piccola critica, perché vorrei che parlaste di più di rugby. Tra poco inizia 6 nazioni, manca poco più di un paio di settimane, e ne parlate solo al sabato, e vorrei che ne parlaste anche magari in settimana. Volentieri. E soprattutto diteci come è messa la nostra nazionale, visto che io... Ma seguiremo, Salvatore, seguiremo la marcia di avvicinamento al 6 nazioni, certamente di rugby abbiamo sempre parlato e non solo al sabato, ed è uno degli argomenti in programma. Tra l'altro c'è stata la convocazione del listone dei 30, il raduno è alle porte, ne parleremo certamente sempre di più durante la marcia di avvicinamento della nostra nazionale a questa manifestazione, con Brunel che ha già detto che sarebbe importante vincere subito la prima partita. Che 6 nazioni sarà quello che andremo a costruire? Mi inviano un'agenzia. Iniziamo contro la Francia, che arriva da un grande autunno internazionale. Come sempre contro i francesi sarà difficile. Per cultura e passione, Francia e Italia hanno caratteristiche simili, anche se oggi la Francia ha sicuramente più talento. Questo ha detto Brunel, che però ha ripetuto sarebbe importante appunto iniziare bene il 6 nazioni. Io sono sempre stato un po' critico nei confronti dell'Italia, del rugby, perché belli e bravi, però delle onorevoli sconfitte sinceramente ne abbiamo ormai piene le ceste. No, siamo talmente abituati alle onorevoli sconfitte che non riusciamo più a conquistare qualche onorevole vittoria. Speriamo che questa edizione del 6 Nazioni sia diversa. Adesso io torno dritto sul basket, salutando Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno. Allora, voglio farti sentire prima una cosa che contestualizzo in questo modo. San Antonio Lakers, questa è la partita, time out richiesto, time out interminabile, i giocatori entrano in campo, ma l'arbitro Kennedy spiega perché non si può ricominciare a giocare. Wait, Bill, we're on to you. You're not fooling anybody, Bill Kennedy. Because I can't let your teams go to the Bisogna aspettare che termini la pausa pubblicitaria. This is America. Esatto. Avevano sbagliato delle attribuzioni di time out. Il gioco di time out nell'NBA è di enorme importanza, non solo perché ovviamente corrispondono a una fonte di reddito importante, ma anche perché nella strategia della partita è fondamentale. Tra parentesi, quella pausa un po' ha cambiato la partita, perché poi i Lakers l'avevano già persa e hanno rischiato quasi di vincerla. Sì, è vero. Hanno rischiato quasi di vincerla fino a quando Ginobili ha deciso che non era il caso. Senti, due grandi argomenti in questo momento di tutti gli appassionati di basket italiani è: com'è possibile Milano, e questo te lo chiedo dopo, com'è possibile per i Lakers andare a precipitare così in basso? Che cos'hanno queste due grandi malate che raccolgono il tifo di molti appassionati di basket italiani? Intanto, come sempre, pensare di fare dei paralleli è sbagliato, perché ci si sforzerebbe di fare dei paralleli e la già difficile analisi caso per caso sarebbe più pregiudicata. Diciamo che partiamo dai Lakers. I Lakers sono non giovani, per usare un eufemismo elegante, non equilibrati tra una metà campo e l'altra, e hanno pensato che assieme quattro grandi giocatori fosse sufficiente. Non è stato sufficiente nel 2003-2004, quando però intanto le gerarchie interne erano molto più chiare, adesso lo sono molto meno, quando c'era un allenatore consolidato, quando c'era un ambiente di un certo tipo, è molto possibile che sia ancora meno sufficiente adesso, oltretutto con la complicazione degli infortuni, perché la lunga pausa di Nash, quella complessivamente lunga di Gasol, adesso anche il caso Howard, che comunque anche quando c'è stata è stata la controfigura di Howard, è senz'altro un fattore enorme. Se fossero stati tutti a posto, adesso staremmo parlando di una squadra probabilmente che non convince, che è quarta, quinta, sesta, quello che è a ovest, e non che è undicesima o decima o dodicesima a seconda del momento. Questo per i Lakers. Milano direi che è completamente diversa la situazione, anche se direi che ci si può spingere a dire che si è privilegiato il nome e il valore dei giocatori in dubbio rispetto alla possibile chimica, anche qui sì, offensiva e difensiva, e però sono tutte simulazioni molto difficili da fare in laboratorio. La prova del campo dice che non è una squadra equilibrata, ecco, è l'unico punto di contatto che trovo. Sì, ora è arrivato Marquis Green, però Flavio, domenica si gioca l'ingresso alle Final Eight di Coppa Italia, che saranno la prima grande kermesse stagionale, e una Milano che ospita le Final Eight senza l'Olimpia credo sarebbe il punto più basso di questa, forse della gestione Armani. Hai perfettamente ragione, direi che questo è l'altro punto di contatto, ovvero sia che se Milano vince a Brindisi di 10, dico per dire, ha fatto appena il suo dovere, se perde è un Armageddon. Se i Lakers dovessero entrare nei playoff con l'ottava o la settima moneta e dovrebbero fare una bella rimonta da qui alla fine, avrebbero fatto appena il loro dovere. Si sono messe ambedue in una situazione difficile. Io credo che il terzo punto di contatto che troviamo mentre parliamo è che con i pannicelli caldi è difficile, però grandi cose mi sembra che da una parte e dall'altra, per molti motivi, non si possano, non si vogliano, non si ritengano di fare, e quindi immagino che questa sia un'altra cosa che accomuna le due situazioni. Cioè, Andrea Vaccari che twitta e mi domanda di chiederti qual è la tua valutazione sui Blazers, che pure nella notte, lo dicevo prima, hanno battuto Miami. E sono una squadra che è ripartita da zero, che di pressione non ne ha, che ha un allenatore molto interessante, uno staff molto interessante, l'allenatore Terry Stotts, che ha giocato anche qualche partita a Cantù illo tempore, prima di essere tagliato per uno che era molto meno un bravo ragazzo, però prendeva più rimbalzi, con cui vinsero lo scudetto. Adesso fa l'allenatore, David Banterpool, che credo ci ricordiamo tutti. È una squadra in questo momento unita, però la soluzione dei casi Lakers e Milano non può essere quella di ridimensionarsi a livello Blazers per dire adesso siamo uniti e va tutto bene. È semplicemente che andare da 0 a 9 è un discorso, andare da 9 a 10 è tutto un altro discorso, e lo sanno benissimo i portanti dei Blazers, che per arrivare qui hanno preso facciate incredibili con squadre che costavano tantissimo, che avevano nomi reboanti, certo, e che tutti si dicevano: ma come mai non funziona? Perché non funziona? Sono così forti sulla carta. Flavio, la flessione dei Knicks per chiudere? Come si spiega? Ma, la questione dei Knicks è che in questo momento pagano il combinato disposto di tre cose: gli infortuni pesanti, il fatto che hanno alzato il livello delle aspettative, adesso tutti credono che debbano essere per forza quelli delle prime 8-9 partite, che non era credibile, il miglior attacco e la miglior difesa NBA by far, come dicono loro, alla grande, e in più per l'ennesima volta tu aggiungi Stadamar, che è un fuoriclasse, anche se ha dei limiti, ma è un fuoriclasse, ma non è detto che aggiungere un fuoriclasse è sempre un aiuto, anzi in questo caso è tutt'altro che un aiuto. Grazie Flavio. Un abbraccio, buon lavoro, grazie a Flavio Tranquillo. Adesso ci fermiamo per il traffico, ma poi torniamo con voi. 800 24 00 24, perché siete convocati on all sports, su tutti gli sport, ogni giorno, dal lunedì a venerdì. E vi ricordo, domani, anche per darvi un po' di fastidio, anche il magazine del Tutti Convocati settimanale, tutto il meglio e il peggio di ogni settimana, dalle 17 alle 18. Ma adesso traffico. Gallinari dentro! Miracolo di Danilo Gallinari al secondo overtime. Gives it to Andrea Bargnani, deep three. Oh! Andrea Bargnani's got 38. He's exploded in the fourth. Per vedere il Gallo e il Mago all'All-Star Game di Houston, vota su allstarballot.nba.com. Cosa stai aspettando? Sì, tocca a voi, alla vigilia del giro di boa del campionato, virata domani con Chievo-Bologna e poi con Inter-Pescara la sera. Non sono due partitissime, io credo si arriverà alla linea del traguardo con questo stesso ordine, almeno per quanto riguarda la prima della classe. Vediamo per quanto riguarda invece la seconda. Sarebbe bello se la Lazio riuscisse a protrarre questa sua grande stagione. Però c'è il Napoli, però c'è l'Inter, però c'è magari una rimonta del Milan. Però se ci togliete anche questa incertezza, la domenica andiamo al cinema al primo spettacolo alle 3, che è quello dei bambini. A proposito di bambini, torniamo a Balotelli, che abbiamo l'altra dichiarazione di Raiola. Ma va al Milan Balotelli? Cosa ha detto? 0% che Mario Balotelli possa venire in Italia a gennaio? 0,0000,1. Qui nel calcio si sa mai. Quanti zero ha messo? Li avete contati? Io no, sinceramente no. Però quell'uno ce lo mette sempre, quel vecchio volpone di Raiola. Fausto Verona. Sì, salve Carlo, complimenti. Buongiorno, grazie. Due domande al volo. La prima: come mai Siena negli ultimi 5-6 anni ha provato giocatori come McIntyre, McCaleb e Bobby Brown e Milano si è sempre accontentata di Cook e adesso di Maurus Green, buon giocatore ma che non può fare secondo me la differenza per vincere il titolo? Si dia una risposta, seconda... si dia una risposta. Dimmi. Sì, no, datti una risposta. Beh, perché probabilmente ma non è questione di budget, perché comunque no, non è questione di budget, no, varie, perché veramente Cook era da tagliare dopo 3 mesi lo scorso anno e l'hanno tenuto anche quest'anno, e anche quest'anno ha fatto quello che ha fatto, insomma, quindi era sicuramente da tagliare. Quindi la risposta è perché a Siena sono più bravi, bravissimo, sono abituati a vincere, che è la differenza che ha Milano. Importante. A vincere, a scegliere i giocatori, a ricostruire la squadra, ad andarli a prendere dove devono essere andati a prendere con i soldi giusti, eccetera. A Milano non hanno ancora imparato quest'arte. Anche poi hanno due scarti del Panathinaikos, insomma, alla fine. Beh, scarti neanche tanto, però direi due giocatori di completamento del Panathinaikos. Milano mi sembra una squadra fatta di ottimi giocatori di completamento. Quindi Burusis e Fozzi secondo me sono tutt'altro che due scarti, però sono due giocatori che non sono leader né tecnici né emotivi. Poi? Seconda, veloce. Thomas Reis, campionato clamoroso quest'anno. Andrà in nazionale a settembre per gli europei? Chiediamolo a Pianigiani, secondo me sì. Secondo me sì, perché è uno dei suoi, perché comunque fa parte di quel gruppo, perché è anche funzionale al gioco che fa la nazionale. Quindi io penso che a prescindere dalla continuità di rendimento che possa avere da qui alla fine della stagione, non ho grossi dubbi che possa essere quantomeno tra i convocati. Poi quanto spazio lo vedremo. Giancarlo, Napoli. Salve, sono Giancarlo, salve. Buongiorno. Volevo semplicemente ricordare a tutti coloro che ascoltano questa mia telefonata che ciò che sta facendo Radio 24 Ore a proposito dell'offesa verso il Napoli non farà altro che creare delle provocazioni autorizzate e premeditate quando verrà la Juve a Napoli. Quindi vi prego, siccome l'Italia è una, il popolo italiano è uno solo, cerchiamo di essere uniti e si vergogni quel signore che ha offeso la città di Napoli, non solo la squadra, ma ha offeso anche la città di Napoli. Ma perché? E poi voi di Radio 24 Ore no, ma no, di dare un po' di attenzione al di là di noi di Radio 24 noi, ma cosa ha detto? Della città di Napoli, no, alle ma mi scusi del sud, ma, perché voi ma fate, tutta non quella fate che, altro che tutta quella che volete nord, no, non è vero, non ma non è vero, non è vero, vi dovete vergognare. Vabbè. Io ascolto Radio 24 Ore, io e tante altre persone da tanto tempo. Da questo momento non l'ascolteremo più. E fate male, e fate male perché lei mi deve dire, che cosa ha detto, qual è l'offesa? Qual è l'offesa? L'offesa è quella là di aver reso pubblico l'antipatia per il Napoli quando non ce ne sono motivi. Non ce ne sono motivi. E voi create così uno stato d'animo di guerra verso persone che fanno parte della stessa famiglia. No, attenzione, attenzione. State proteggendo. Attenzione, chi si deve vergognare, chi crea lo stato di guerra, Giancarlo? Non diciamo fesserie. Chi si deve vergognare, chi crea lo stato di guerra per un giocatore che risponde a un'intervista. Non c'è qualche faccia in particolare, ma una squadra, soprattutto dopo le finali ruvide di Coppa Italia e Supercoppa, il Napoli, quando me lo trovo di fronte scatta qualcosa. È una dichiarazione agonistica, non è una dichiarazione di guerra, e non ci trovo nulla di offensivo né per Napoli né per la napoletanità. Gennaro avrà qualcosa da dire anche lui. Sì, allora non sono d'accordo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, lo stato di guerra sono quelli che dicono queste dichiarazioni fomentano la violenza. Allora, io sono napoletano, tifoso di Napoli, le volevo dire due cose. Uno, stasera a Napoli ci sta il derby di pallanuoto, è uno sport che praticano i miei figli ed è bellissimo ed è gratis. Detto questo, le dichiarazioni di Marchisi, io non sono affatto offeso, perché anzi lo trovo bello che uno dichiara la rivalità sportiva e non ma mi sembra spiego. Questo non nulla, mi sembra mi sembra male. Mi sembra soltanto questo, no? Le spiego, io sono tifosissimo del Napoli, ma se dovessi trovare una macchina dei tifosi della Juve che bucano una ruota, io mi fermo e li aiuto sul campo, sono altro. Miei nemici, non altro. Trovo nulla di offensivo. Ma lo stato di guerra sono stupidi chi prendono le frasi, anzi a me è bello sapere che di là c'ho uno che, voglio dire, giustamente dice, io quando vedo il Napoli è anche motivo d'orgoglio per me. Ma quindi non mi sento offeso. Ma no, ma poteva dire il Torino, poteva dire il Milan, sì, poteva dire. Ma la rivalità, il problema è che noi a me sembra una questione di. Mi sembra una questione di rivalità sportiva, come ce n'è. Sì, ma è una rivalità sportiva. Che ci deve essere? Che ci deve essere? Ci deve essere, che non deve sfociare se io vado a vedere una partita Juve Napoli. A me mi sono antipatici i tifosi. C'è tipo contro, anche qualche coro, un po' così, ok. Ma deve finire lì. È finita là, se la Juve vince è più brava del Napoli, non fa niente, sarà per la prossima volta, ma è solo rivalità sportiva, non vedo nulla di offensivo alla città. Chi meno si male. Offende secondo me lo dico alla da coda Napoli, di paglia alla coda di diciamo che ha la coda di paglia, lei dica quello che vuole, io dico che ha la coda di paglia, una coda di paglia che non è proprio il caso di avere. Esatto, non è proprio il caso. Andrea, Milano, grazie Gennaro. Buongiorno, buongiorno a lei. L'argomento è lo stesso, quello della dichiarazione di Marchisio, che mi sembra che sia stata costruita un po' ad hoc, una polemica veramente infondata, perché sinceramente essere indignati per quello che ha detto Marchisio, adesso, senza essere io a mia volta offensivo, ma molte altre persone potrebbero essere indignate per cose molto più gravi e molto più serie a questo punto. Beh, è stato già detto tanto da tutte le parti, da tutte le regioni d'Italia, mi sembra di aver sentito, in particolare dalla splendida Napoli che si affaccia sul Golfo. Invito gli amici napoletani a pensare a altre cose più serie che non alle dichiarazioni di Marchisio. Possono anche pensare alle dichiarazioni di Marchisio, ma io non riesco a vederci niente di perverso in queste dichiarazioni di Marchisio. E anzi dico, per fortuna c'è qualcuno che risponde ad una domanda che non è, insomma, è una domanda normale, è una domanda normalissima. Quale squadra ti sta più antipatica? Con quale squadra metti più agonismo? Quale squadra provi più piacere a battere? Ma viva Dio, c'è uno che risponde e dice: io quando gioco contro il Napoli, anche perché ci sono state delle finali molto tese agonisticamente, ci sono stati degli episodi, evidentemente Marchisio considera il Napoli una grande rivale e dunque dice: quando vedo azzurro mi carico di più. Dov'è la perversione? Dov'è la perversione? Dov'è la ragione per infuriarsi? Magari me lo dice Gaetano da Napoli. Io sono un napoletano che ha vissuto a Milano e a Torino nelle assicurazioni, sono anti-juventino, ma sì. Marchisio ha detto quello che lui pensa, è sportivo, è molto più chiaro. Marchisio che non Conte quando inizia la partita declama la preghiera: dacci il nostro gol quotidiano, dacci il nostro rigore, annulla un bel gol alla società rivale, non dagli magari qualche rigore a loro. La recita sempre la poesia Conte. Recita la poesia, però se... Sì, c'è sostanza, però tutte le domeniche c'è il gol annullato. Però intanto non si accorge di quello che succede dentro il suo spogliatoio. Dice: sono proprio un coglione, non mi sono accorto che vendevano le partite. Ma se l'avessi saputo, dice sempre Conte in questi... Ma quello è ingenuo, caro. Molto ingenuo. È ingenuo. Ingenuo. Sì. Conte è ingenuo. C'hanno la cattiveria negli occhi, non lo vedi quando lui canta i giocatori? È ingenuo. È ingenuo all'incontro. Ho capito. Come no? Vabbè, comunque. Però è così. La Juve è così. Io sono anti-juventino per principio. Ma sì, ma ho capito. E Marchisio ha tutti i diritti di essere non anti-napoletano, ma di considerare il Napoli come l'avversario contro cui si carica di più. Io sinceramente questa storia faccio una grandissima fatica a capirla, in particolare per quanto riguarda le reazioni, il modo in cui sono state prese queste dichiarazioni, che secondo me, ripeto, di perverso non hanno proprio niente. A proposito di Napoli, dopo Armero ha firmato Calaiò in Napoli, dichiarazione cioè notizia di mercato, uno degli autori della cavalcata dalla C1 alla A, così i napoletani saranno meno amareggiati con questa notizia di chiusura. Ragazzi, ci sentiamo domani per il magazine, per la prima puntata del magazine del sabato di Tutti Convocati. Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti. Siccome l'Italia è una, il popolo italiano è uno solo, cerchiamo di essere uniti. Ma se dovessi trovare una macchina dei tifosi della Juve che bucano una ruota, io mi fermo e li aiuto. I sogni son secondo Cenerentola, i sogni sono desideri.